anche stamattina andiamo a leggere i giornali di Milano, ma anche quelli di Roma, di Napoli. E me ci mettiamo pure quello della Sicilia, perché queste cose fanno schifo quello della Sicilia. 24 mattino. Signori, sono le 7:19 minuti, eccoci qua in diretta 24 mattino, questa è la rassegna stampa e dunque la lettura dei giornali che oggi ci portano tante notizie diverse di cronaca, di economia, di politica, di esteri. Caro Peter, andiamo. Non c'è niente di più divertente che commentare i giornali, ragazzi. Peter Pescapè, il nostro alpino in regia. Quant'è che non ti dico che sei il nostro alpino in regia? Quando è la dunata quest'anno? 14 maggio a Treviso. Beh, Treviso, insomma, è proprio patria degli alpini. E allora, siamo qui con Lorenzo Nespoli in redazione, pronti a leggere i giornali, a cominciare dai titoli questo mercoledì 19 aprile. Londra vota e scuote le borse. Questa è l'apertura del Sole 24 Ore, la decisione di Theresa May di indire elezioni anticipate l'8 giugno. Anche per il Corriere della Sera, May a sorpresa chiede il voto, è il titolo di prima pagina. Londra al voto per blindare Brexit, è l'apertura anche del Messaggero. Londra fa il bis contro l'Europa, si torna a votare, è l'apertura del Giornale. Mentre altre aperture, questa la vedremo tra poco, eh? Repubblica, report sotto accusa, rischia lo stop Rai, falsità sui vaccini. Anche il Fatto Quotidiano, tutti contro report, governo, PD, Benigni e lobby dei farmaci. Sì, anche Roberto Benigni ha querelato report per un servizio. Vaccini, un vero servizio pubblico, è il titolo di apertura dell'Unità, dopo le polemiche ovviamente della trasmissione report. Poi altre aperture, anche il Giorno, però il Giorno sulla sposta sugli Stati Uniti, il titolo è Come appestati, gli Stati Uniti mettono l'Italia tra i paesi a rischio per il morbillo, in quanto non ci si vaccina più come prima ed è ripreso il morbillo. Gli Stati Uniti dicono ai loro cittadini, attenzione a viaggiare in Italia. La Verità, il governo all'attacco della famiglia, sforbiciata le detrazioni fiscali, nuove tasse sulla casa, aumento dell'IVA. La finanziaria prepara la strada a una bastonata per i cittadini. Mentre La Stampa, dal Fondo Monetario uno schiaffo all'Italia, il rapporto riduce le stime del governo, siamo alla crescita minore di tutta l'Unione Europea. Per Libero invece Renzi spappola la sua corte, non gli vanno più bene Padoan, Calenda, Boeri, Campo dall'Orto, che pure ha voluto a ogni costo. Queste alcune delle aperture. Voglio partire proprio dalla questione dei vaccini. Io non ho visto la puntata di report, quindi non ho un'idea, insomma. Però a giudicare dalle polemiche deve essere successo un po' un mezzo bordello, giusto per usare un eufemismo, perché tutti, a cominciare dalla RAI, dal ministro alla salute Lorenzin, da moltissimi esperti, da molti medici, da molti scienziati, contro la puntata di report, l'apertura di Repubblica. Michele Bocci racconta il servizio di report di lunedì, si intitola Reazioni avverse. Nell'introdurlo, Sigfrido Ranucci, che è colui che ha sostituito Milena Gabanelli, ricorda che i vaccini sono la scoperta più importante della prevenzione sanitaria negli ultimi 300 anni, ma sono le parole di chi sa che arriveranno le polemiche. Si parla dell'anti-HPV, segnalando soprattutto la mancata o errata registrazione di tutti gli eventi avversi. Nel servizio alcune ragazze denunciano dolori e malesseri permanenti che non sono accettati come effetti collaterali. Poi si sentono alcuni esperti, tra virgolette, che però non citano dati scientifici. C'è l'immunologo di Tel Aviv, Yehuda Schoenfeld, che non crede nell'efficacia del vaccino. C'è la moglie di Stefano Montanari, personaggio noto nel mondo Novax, che studia la presenza di nanoparticelle nei vaccini. Anche in questo caso non sono indicati lavori scientifici. C'è Silvio Garattini che parla in generale di necessità di controlli indipendenti sui farmaci. Il risultato, il mix di questo, è un mare di polemiche. Sigfrido Ranucci si difende, due interviste su Repubblica e Il Corriere. A Repubblica, intervistato da Silvia Fumarola, dice: «Nessuno mette in discussione l'utilità dei vaccini. Io ho fatto vaccinare mia figlia, ma vogliamo parlare anche delle controindicazioni?» Senta Ranucci, ma vogliamo buttare al vento anni di campagna per far vaccinare le ragazze contro il papillomavirus? Spero proprio di no. Questo è il messaggio che vuol far passare chi ci attacca. La cosa peggiore è non dare tutte le informazioni. Veramente l'accusano di aver dato un'informazione parziale. Per lei cosa mancava nella vostra inchiesta? Le voci delle istituzioni, ma abbiamo scritto anche al dottor Roberto Burioni a gennaio, nessuna risposta. Abbiamo contattato, ma non hanno accettato di intervenire, l'AIFA, l'Istituto Superiore di Sanità, il Ministero della Salute. Abbiamo invece intervistato i responsabili dell'EMA, l'Agenzia Europea del Farmaco. Ma non pensa di aver dato un messaggio negativo? No, nessuno ha mai messo in discussione l'utilità dei vaccini, anzi all'inizio della puntata ho detto esattamente il contrario. Chi ci accusa non ha visto la trasmissione. E le accuse provengono da molti scienziati, Elena Cattaneo per esempio, senatrice a vita, sempre su Repubblica. Sono sconcertata, la RAI dovrebbe adottare le linee guida della BBC. È sconcertante nel metodo l'inchiesta di Report. Intervistare persone a caso e chiedere se hanno avuto reazioni avverse dopo la somministrazione del vaccino è come chiedere ai genitori dei bambini cui erano somministrate le infusioni del non metodo Stamina se stessero meglio. Report si è prestato a far da cassa da risonanza a coloro che ancora si oppongono ai vaccini. Nonostante la mole di dati a favore dell'efficacia è tale da rendere perdente queste posizioni. E quindi attacca Elena Cattaneo, ma Luciano Mariani sul Messaggero, responsabile dell'unità del papillomavirus all'Istituto Tumori Regina Elena di Roma: mi sento tradito da 20 anni di mio lavoro, vedo gli effetti anche su donne giovanissime, ho sperimentato il vaccino e poi basta un quarto d'ora di trasmissione con notizie scientificamente non valide per generare il dubbio e gettare il panico. Mi ha indignato nel servizio perché non si è parlato del beneficio complessivo della profilassi su tutte le patologie da HPV. Quelle benigne, come i condilomi, quelle maligne, cancro dell'utero, vagina, pene o orofaringe. Insomma, un quarto d'ora di disinformazione vanifica 20 anni di impegno scientifico, questo dice il professor Luciano Mariani. Le polemiche sono politiche. Addirittura per Repubblica Report rischia ora la chiusura. Chi difende invece in qualche modo Report è uno scienziato, Silvio Garattini, intervistato da Ferruccio Sansa sul Fatto, a pagina 4. Nessuno scandalo, serve trasparenza. Non si mettevano in discussione tutti i vaccini, il conduttore l'ha detto più volte, si parlava soltanto delle reazioni avverse a quello contro il papillomavirus, che è un tipo molto particolare. E dice Garattini, il punto per me è la trasparenza che riguarda tutti i farmaci, non solo i vaccini. Non possiamo valutare le conseguenze dell'assunzione dei farmaci basandoci solo su studi presentati dalle industrie farmaceutiche. Sugli studi è riportato il 10% di quello che dovremmo sapere sulle sostanze che assumiamo. Quindi Garattini in qualche modo difende invece il senso di questa inchiesta. Comunque è diventato un caso politico. Certo, c'è anche il caso di Benigni. La trasmissione è questa di Report che ha fatto il botto, come si suol dire. Anche Benigni ha querelato Report. Lo fa sapere il suo avvocato Michele Gentiloni Silveri, tra l'altro cugino del premier Gentiloni, dicendo che sia Benigni che Nicoletta Braschi, in qualità di soci di Melampo Cinematografica SRL, hanno dato mandato di sporgere querela nei confronti di Report, di chi ha fatto il servizio, nonché di chiunque altro abbia con loro concorso o cooperato in relazione alle notizie false, gravemente diffamatorie diffuse nel corso della puntata del 17 aprile. Quindi anche Benigni arrabbiato con Report. Staremo a vedere che succede alla trasmissione. Comunque è pieno di articoli su questo. La verità titola le tasse sulla casa, tra le altre cose, c'è soprattutto la questione di quella che è stata definita, semplificando un po' magari, la tassa Airbnb. Una cedolare al 21% sugli affitti turistici sotto i 30 giorni. tipica della piattaforma Airbnb, di chi affitta e prende case, appartamenti o stanze con questa piattaforma internazionale. Ebbene, il responsabile per l'Italia di Airbnb, Matteo Stefanelli, viene intervistato da Repubblica, pagina 13, e dice: non possiamo essere sostituti d'imposta perché questo è incompatibile con la nostra natura di piattaforma, ma sulle tasse siamo disposti a fare la nostra parte, a raccoglierle e a girarle allo Stato. E dunque l'idea è quella di farla pagare agli host, cioè a chi mette a disposizione una stanza, una casa sulla piattaforma, trattenendo il dovuto alla fonte. Sarebbe il primo caso a livello globale, ma certo, dice Stefanelli, il metodo non va bene, non possiamo essere sostituti di imposte, non possiamo sostituirci, non possiamo neanche dare i nomi all'Agenzia delle Entrate, altrimenti tutto questo non va bene. Non è necessario trasferire i dati dei clienti all'Agenzia delle Entrate. Un modello c'è, quello con cui in molte città già raccogliamo la tassa di soggiorno per poi girarla alle amministrazioni, ma non agiamo da sostituto d'imposta, ma come agente contabile. Allo stesso modo si potrebbero raccogliere alla fonte anche le imposte sul reddito. Quindi c'è un'apertura non nel metodo, ma nella disponibilità a pagare le tasse, dice il responsabile per l'Italia di Airbnb. Anche perché gli albergatori sono molto arrabbiati. Ne dà dimostrazione Il Secolo XIX con Marco Menduni, a pagina 2. Che cosa hanno fatto, per esempio, in Liguria? Il presidente ligure degli albergatori, Americo Pilati, racconta questa indagine. Si sono trasformati un po' in detective, un po' anche in hacker, scrive Il Secolo XIX, usando mezzi leciti e altri sul limite, ammette il presidente degli albergatori liguri, e sono andati alla guerra producendo un DVD il cui contenuto sono tutti coloro che, secondo questa indagine difensiva, la chiamano così gli albergatori, affittano di soppiatto. Tutti soldi puliti in tasca, non un euro pagato di tasse. Ed è partita una lettera ai quattro questori della Liguria. Qui c'è una violazione aperta delle leggi antiterrorismo e di questi tempi non è il caso, con la mancata comunicazione degli ospiti alla polizia. E poi una lettera ai sindaci: dovete vigilare, non renderemo pubblici i nomi, assicura il presidente degli albergatori liguri, ma eccoli qui, albergatori detective alla prova di forza con chi affitta in nero. Hanno fatto un DVD con i nomi di chi affitta in nero in Liguria. Questo racconta Il Secolo XIX. Va bene, dai, siamo all'articolo invece che mi fa pinzore della giornata. La questione è sempre la solita, quella dei vitalizi, che torneremo ad affrontare anche più tardi con Oscar Giannino. Repubblica, per il secondo giorno consecutivo, si concentra con Emanuele Lauria sulla questione vitalizi. Oggi torna prepotentemente alla ribalta Salvatore Caltagirone. Non è la prima volta, ogni tanto ci si concentra su alcuni capri espiatori a cui far pagare un po' tutto. I miei 3.000 euro al mese per 5 sedute all'Assemblea regionale siciliana. Dov'è lo scandalo? Prendo il vitalizio. E lei che farebbe al mio posto? L'eroe nazionale rinunciando? Prendo il vitalizio pur avendo partecipato a 5 sole sedute dell'Assemblea regionale siciliana. 3.000 euro al mese. Non c'è nessuno scandalo. La legge non l'ho fatta io. Ma signora, ma che fa? Metta le mani sul volante, signora, ma andiamo, per cortesia. Alessandro Milan, due spalle rubate all'agricoltura. Sì, si può ben dirlo dopo la mia Pasqua in Valtidone. Allora, cari ascoltatori, torniamo alle questioni politiche italiane. La questione politica numero uno in Italia in questo momento è la questione dell'IVA, la disfida dell'IVA. E le tensioni all'interno del governo, è inutile negarlo. Allora, dopo l'intervista di Padoan al Messaggero, l'idea è quella: aumentiamo l'IVA, in cambio riduciamo il cuneo fiscale. Quindi aumentiamo l'IVA, aumenteranno i prezzi, deprimeranno i consumi, ma in cambio del cuneo fiscale la riduzione, quindi più soldi in busta paga per gli italiani. Questa almeno è la proposta tecnica di Padoan. Su questo Renzi non ci vede proprio assolutamente, e continua anche ieri nella sua e-news, cioè le informazioni online, l'ultima volta che in Italia è aumentata l'IVA risale al 1° ottobre 2013, un altro governo. Questa è la linea di Renzi, lo stop di Renzi, l'IVA non aumenterà mai, il governo è con me. Ecco, su questo il governo è con me, è qui che si può aprire un dibattito, e lo fa Francesco Verderami sul Corriere della Sera a pagina 9. L'asse Padoan-Calenda per le nuove aliquote dell'IVA e la frenata del PD. Padoan non poteva non sapere che la sua proposta per uno scambio tra aumento dell'IVA e riduzione delle tasse sul lavoro avrebbe incontrato pochi sostenitori. In Parlamento nessuno. In Consiglio dei Ministri il solo Calenda, che al pari di Confindustria considera l'idea positiva sul piano economico perché creerebbe inflazione fiscale, ridurrebbe la pressione del debito e sarebbe di stimolo alla crescita. Ma la questione è politica. Renzi ha provveduto prontamente a bocciare l'idea. Il PD le tasse non le aumenta. Abbiamo rottamato Dracula, così Renzi. La tesi più scontata allora di questo scontro, scrive Francesco Verderami, è questa. La tesi che circola nella maggioranza è che Padoan si sia rotto. Proprio così, si sia rotto. E che, come ogni tecnico, quando si approssima alla fine del mandato politico, abbia sentito il richiamo della foresta, di quel mondo cioè da cui proviene, e che aveva criticato la sua scelta di assecondare la stagione renziana dei bonus. Sono supposizioni che trovano qualche fondamento nell'intervista al Messaggero, quando dinanzi alla domanda sui due fuochi tra i quali è stretto, quello europeo e quello interno, Padoan ha aggiunto un terzo fuoco, e cioè il metodo del fuoco amico, ma su questo non faccio commenti. Li avesse fatti, avrebbe fatto scoppiare la crisi di governo. Insomma, meglio non aprire il vaso di Pandora, anche se, citando l'IVA, quel coperchio un po' l'ha sollevato. E Francesco Verderami racconta dunque di un Padoan che si è rotto, sente il richiamo del tecnico che è in lui e non del politico, e la battaglia dell'IVA, come la definisce in un titolo sempre il Corriere della Sera, pagina 8, è la battaglia politica del momento. Secondo La Verità, con la scusa del lavoro, cioè abbassare il cuneo fiscale, c'è la stangata in arrivo sui consumi. Claudio Antonelli: il governo fa circolare questa ipotesi che il rialzo dell'IVA sia utile a battere il cuneo. Cita stime ottimistiche dell'OCSE, in realtà con l'attivazione delle clausole le famiglie dovrebbero tagliare 8 miliardi di spesa, ma senza detrazioni finiranno in ginocchio. Questa è almeno La Verità. Tra l'altro, nel giorno in cui il Fondo Monetario Internazionale, e questa è l'apertura per esempio della Stampa, certifica così che siamo il fanalino di coda dal punto di vista della crescita nell'Unione Europea. L'Italia maglia nera con la crescita più bassa di tutta l'Unione. Ne è convinto il Fondo Monetario nel suo World Economic Outlook, prevede per il 2017 e il 2018 un PIL a più 0,8%. Insomma, tagliate le stime di crescita sull'Italia, siamo ultimi nell'Unione Europea. Certo, migliora un po' il debito, questa è una buona notizia, ma ultimi in crescita. In tutto questo Renzi però torna alla carica sulla questione elezioni anticipate. Questo almeno nel retroscena di Goffredo De Marchis, pagina 5 di Repubblica. Vinco le primarie, poi al voto. Ritorna al pressing di Renzi. L'ex premier confida in una larga affermazione alle primarie e sfrutta l'effetto di Theresa May in Gran Bretagna. Inutile attendere il 2018. Questa, secondo Repubblica, la linea di Renzi, che però per il momento accoglie solo dei no. Tra l'altro, dobbiamo spostarci invece sul Movimento 5 Stelle e dire se un indizio non è una prova, due indizi un pochino, tre cominciano a essere un po' sospetti. Negli ultimi due giorni succedono queste cose. Primo, Di Maio che appoggia la questione del non lavorare la domenica, avvicinandosi così in qualche modo all'area cattolica. Oggi sul Corriere della Sera mi ritrovo una pagina intera di intervista al direttore di Avvenire, Marco Tarquinio, che dice: bene Di Maio contro le aperture domenicali. E sapete che vi dico, siamo vicini come cattolici su tre quarti dei grandi temi del Movimento 5 Stelle. Questo è il titolo dell'intervista al direttore di Avvenire. Con Movimento 5 Stelle molte sensibilità in comune. E dico, accidenti, questo è un secondo elemento interessante. Il direttore di Avvenire, che parla raramente, fa un'intera pagina di intervista al Corriere della Sera dicendo siamo molto vicini al Movimento 5 Stelle. Poi uno va su Avvenire e trova, e questa è veramente una perla rara, un'intervista di un'intera pagina a Beppe Grillo e dice, accidenti. Terzo elemento, ma che succede tra il Movimento 5 Stelle e i cattolici? C'è un qualche tipo di avvicinamento? Beh, insomma, questi tre elementi messi insieme fanno immaginare qualcosa. Arturo Celletti e Luca Mazza intervistano Beppe Grillo. Noi al governo sarà naturale, non c'è una strategia, vogliamo restituire il paese alla gente. Grillo intanto parte attaccando Berlusconi che li ha messi di mira il Movimento 5 Stelle e Grillo risponde: lui è stato il tranviere più noto tra quelli che hanno portato l'Italia verso il precipizio della cosiddetta Seconda Repubblica. Ho ben chiaro che il super personalismo alla Nembo Kid dei leader politici ci ha quasi ammazzati, dice Beppe Grillo, e vedo che il maestro è ancora lì ad allattare gli agnellini. È spiacevole la visione di un altro anziano ridotto così a mendicare buonismo. Senta Grillo, come sarebbe un governo 5 Stelle? Non esistono energie esterne al movimento, siamo compenetrati con qualunque espressione non criminale e non politica che non sia legata al vecchio ordine del nostro paese. Il governo a 5 Stelle avrà la consistenza di ciò che manca in Italia da tempo, onestà e competenza al servizio dei cittadini. Senta, per lei davvero l'Europa ha prodotto solo guasti? Risponde Beppe Grillo, l'Unione Europea di oggi è un sacco contenente 27 popoli che si chiedono come ci siano finiti dentro. Tra questi popoli ci sono connessioni rigide e frustranti, innaturali. L'Unione non può essere tacciata di egoismo. Ed è incredibile che si continui a parlare di forze, leader populisti incombenti sui governi, mettendo insieme le reazioni meno confrontabili tra di loro col problema più diffusamente uguale in tutto il mondo, il dopo sbornia della finanza, delle agenzie di rating, dei cittadini sbattuti sul piatto del business mondiale come mano d'opera per un'uscita dalla grande crisi che è soltanto nominale. Beh, ma anche come Berlusconi, anche lei è il dominus del movimento, o no? La realtà del movimento, risponde Beppe Grillo, è nel cuore di un progetto, non di una persona. Questo è possibile e necessario in un mondo in cui è globalizzata l'informazione. Vabbè, parla di tante altre cose, parla anche di Obama, di Trump, di Putin. È un'intera pagina di intervista al capo del Movimento 5 Stelle. Tra autocritica e ironia dice anche: un comico può permettersi di fingere, un politico no. Noi al governo sarà naturale, questo è il titolo dell'intervista di Beppe Grillo ad Avvenire. Caro Mauro Meazza, senti che batto i pugni, come stai? Bene, bene, grazie. Buongiorno Alessandro, buongiorno agli ascoltatori. Oggi sono abbastanza carico perché mentre tu leggevi così altri giornali io stavo prendendo visione dei consigli sul Sole 24 Ore per leggere la mia dichiarazione precompilata. E ci hai trovato tanti denari? Beh no, sostanzialmente stavo controllando se le spese sono state imputate correttamente, le spese per i farmaci, ma se tu leggi come dovresti sempre fare, religiosamente, songio, che è in cinese, cominciamo a familiarizzare con questa lingua che è importante, norme e tributi, vedrai che appunto ci sono una serie di indicazioni su che cosa cominciare a cercare sulla precompilata. Hai letto la tua precompilata? Non ancora. Ho paura di farlo. Ma non è una lettura pericolosa comunque e neanche eversiva che io sappia. Tutto questo su norme e tributi oggi su Sole 24 Ore. Diverse altre cose ti vorrei segnalare. Ad esempio, restando sempre nelle pagine di norme e tributi che tu devi leggere religiosamente. Speravo lo dicessi in cinese, vabbè, faremo esercizio su questo. Amico mio. L'amministratore di condominio deve indicare il nome del condomino moroso, caro Alessandro Milan. Caro Mauro Meazza, tempi duri per te. se il fornitore si lamenta, l'amministratore deve indicarlo. L'ha detto il Tribunale di Roma, lo apprenderai nei dettagli, appunto. È vero che è stupido, tu vivi in una super villona, altro che condominio. Praticamente un castello, esatto. Diciamo così, pago ancora anche le imposte sulla prima casa, vabbè, lasciamo stare, non è vero, lo chiariamo, anche ai sensi della mia dichiarazione precompilata, altrimenti non risultando lì mi metti già in un pasticcio. Comunque ti voglio segnalare anche che c'è un pressing italiano per cambiare le norme sul bail-in, lo spieghiamo nelle pagine di finanza, laddove nelle pagine di finanza vedrai anche questa determinazione molto importante dell'Agicom in materia di per Vivendi, che deve sostanzialmente scendere, ha un mese di tempo per scendere nella quota proprietaria o Mediaset o Telecom, ma ci sono dettagliate ricostruzioni e anche analisi di Antonella Olivieri proprio sulla prima pagina di finanza, che tu leggerai avidamente. Oh, bravo, mi piace quando sei reattivo. Oh, poi ti voglio naturalmente dire, oggi è una giornata importante per la TAP, perché c'è il TAR. Sì, il TAR sul gioco, TAP. C'è il TAR sul TAP, no, nel senso che la sospensione, sai che c'è stata una sospensione, però scade oggi, quindi come avvertiamo nella prima pagina di Imprese e Territori, che tu leggerai scrupolosamente. Oh, bravo, ma te lo sei iscritto? No, allora, finalmente, no, ti giuro di no. È Nespoli che ti ho fatto finalmente un cartello per non fare brutte figure. Scrupolosamente leggerai che oggi c'è la decisione del TAR che torna su questa sospensione e vedremo quale sarà l'indicazione dei giudici amministrativi. Molto altro ti vorrei dire, ma soprattutto di non dimenticare, che poi me lo vieni a chiedere al bar, che oggi con Il Sole 24 Ore trovi il Focus, cioè questo supplemento di 16 pagine che è dedicato alle autorizzazioni per i lavori in casa, per l'edilizia in genere. 16 pagine per familiarizzarsi con i cambiamenti in corso. Mi raccomando, prendilo in edicola, non venire poi a cercarmelo al bar. Va bene. E tutto ciò premesso, caro Alessandro, dobbiamo augurare qualche cosa per la partita auguri, di questa sera. Auguri alla Juve, auguri sempre alla Juve per una bella partita. Speriamo che vinca il migliore, come diceva un paronate caro. Vinca il migliore, e allora per tutti gli altri invece, traffico! Alessandro Milan, il frufru fra le fratte dell'informazione. Benissimo, allora cari ascoltatori, la notizia europea, la notizia che proviene dall'estero più importante, con cui molti giornali aprono anche, è la decisione, certamente a sorpresa, l'annuncio di Theresa May, premier britannico, di indire elezioni anticipate l'8 giugno. Pensate, rispetto all'Italia, dove c'è un sistema, per carità, anche elettorale diverso, ci sono anche non 450 partiti come in Italia, in Gran Bretagna è tutta una cultura diversa. In Gran Bretagna Theresa May può contare su una maggioranza di appena 17 parlamentari, qui in Italia sarebbe un lusso, no? Ricordate quando si ballavano le maggioranze su 4-5 parlamentari? L'epoca dei torni, i parlamentari vadano a votare, tornate dall'Argentina, alcuni che passavano di qua e di là pur di far ballare un voto e far sostenere i governi. Ebbene, siccome lì ci sono solo 17 voti a favore del partito di Theresa May, Theresa May dice no, bisogna andare alle elezioni per avere un governo più stabile, più forte. Ovviamente l'azzardo politico è quello, rivinco e mi confermo più forte, c'è col rischio di perdere, ma questo è l'azzardo della politica. Il calcolo politico, scrive Il Sole 24 Ore a pagina 3 con Nicole degli Innocenti, il calcolo politico ha avuto la meglio sulla cautela. La premier britannica Theresa May ha fatto la scommessa più ardita della propria carriera, annunciando a sorpresa le elezioni anticipate l'8 giugno. Negli ultimi mesi la premier aveva sempre insistito che il prossimo voto sarebbe stato nel 2020, ma ieri con un inaspettato annuncio ha spiegato perché ha cambiato idea. L'obiettivo? Rafforzare la sua posizione di premier e il suo governo in vista dei negoziati sulla Brexit. «Serve un'elezione generale e subito», ha dichiarato la May. «Sono arrivata a questa conclusione solo da poco e con riluttanza, ma sono convinta che sia l'unico modo per garantire stabilità negli anni a venire». L'attuale maggioranza è di soli 17 seggi dei Tories, è un ostacolo e dunque Ecco che Theresa May gioca la sua partita politica. Questa è la notizia con cui aprono vari giornali. Invece in Francia ci sono le presidenziali domenica al primo turno e incombe su questo il rischio paure attentati. Più che una paura, Stefano Montefiori racconta sul Corriere della Sera, pagina 5, che ieri sono stati arrestati due criminali comuni francesi che si sarebbero radicalizzati anche con giuramento all'ISIS ed erano pronti per un attentato domenica durante il voto francese. Presi a Marsiglia, due sospetti, la polizia aveva intercettato un video con la bandiera dell'ISIS e nella rivendicazione la pagina di un quotidiano con la foto del candidato di destra François Fillon. Sono il 23enne Clément Baour e il 30enne Mahedine Merabé arrestati. Probabilmente nel carcere di Lille si erano radicalizzati all'Islam, al terrorismo islamico più che altro. In tutto, se uno gira pagina, dagli Stati Uniti i contorni sono ancora poco chiari, ma a Fresno, 300 km da San Francisco, dunque in California, una persona ha ucciso tre persone vicino a una chiesa. L'attentatore Cory Muhammad, di 39 anni, secondo tutti i testimoni, ha urlato Allah Akbar, Dio è grande, poco prima di uccidere, dicendo odio tutti i bianchi, ed è stato poi arrestato. Senza casa, senza lavoro, era già ricercato per l'omicidio di una guardia giurata e gli investigatori sono cauti nel legare la folle sparatoria all'atto di terrorismo, però c'è questo allarme che proviene dagli Stati Uniti. In tutto questo invece dalla Turchia ci sono poche notizie, ma cominciano a trapelare sulla vicenda di Gabriele Del Grande, blogger, regista, in Turchia documentarista, era in Turchia per un lavoro, intervistando alcuni scampati dalla Siria, per un libro, è stato fermato dalle autorità turche il 9 aprile scorso, nel sud-est del paese. Ieri si è fatto vivo dicendo sto bene, non mi è stato torto un capello, ma non posso telefonare, ha annunciato lo sciopero della fame. C'è anche l'appello della Farnesina, cioè del Ministero degli Esteri italiano. Del Grande resta in cella, è una vicenda sulla quale ci vorrebbe un po' una mobilitazione, noi l'abbiamo fatto anche ieri, lo diciamo anche oggi, per quanto si possa fare, cioè mantenere alta l'attenzione su una vicenda davvero assurda di una persona, di un concittadino italiano che era lì per lavorare, per realizzare un libro e che incredibilmente viene tenuto, trattenuto senza alcuna accusa dal 9 aprile, quindi da 10 giorni in Turchia in cella. Oggi Repubblica dedica mezza pagina, il giorno bloccato in Turchia, urlo del blogger, faccio lo sciopero della fame, dopo 9 giorni Del Grande riesce a telefonare a casa, la Farnesina dice liberatelo. Questo è la Turchia di Erdogan, che certo ha altri problemi e soprattutto altre, come dire, svolte autoritarie in corso dopo l'ultimo referendum. Va bene, siamo alla carta costa. L'articolo più inutile scovato sui giornali è una mezza pagina su Libero dedicata a Salvini, che al Papete Beach di Milano Marittima ha posato a Pasquetta con i turisti in spiaggia con tanto di foto. Ma chi se ne frega!